Benvenute alla puntata Color del Cielo di Folk Oddio, puntata dedicata ai canti anticlericali frittate di monache. E quella che sentiamo in sottofondo è la colonna sonora di un film del 1990 di Luigi Magni che si chiama In nome del popolo sovrano. Le musiche sono di Nicola Piovani, ma le parole sono l'adattamento di un canto anonimo del 1849 attribuito, che assomiglia a testi scritti proprio da Goffredo Mameli, l'autore del Canto degli Italiani, che nel 2017, e non prima, è diventato l'inno ufficiale della Repubblica Italiana. Mameli è morto proprio nel 1849 difendendo la Repubblica Romana, e partiamo da questo primo canto. Per chi se lo vuole cantare, gli accordi sono Sol, Re, Sol, Do, Re, Sol, Do, Re, Sol. Se il, che so, se il Papa è andato via, buon viaggio e così sia, buon viaggio e così sia. E poi nella ripetizione arrivano un Fa diesis settima e un Si minore prima di tornare a Do, Re, Sol. Quindi, che ne so, Dio Santa Corona, finì la monarchia, orché sovrano il popolo, mai più ritorni un re, orché sovrano il popolo, mai più ritorni un re. E questo era Nicola Piovani riportato dalla banda alla chitarrina che sto suonando io. Queste sono operazioni, diciamo così, di popolarizzazione di musiche invece molto più recenti, ma noi siamo convinte che le cose popolari ci diventino. In un certo senso potremmo quasi dire che sono diventati musica popolare Pink Floyd, visto l'abuso che se ne fa attorno a tutti i falò. E quindi forse qui a Folk Oddio stiamo un po' cercando invece di riportare attorno ai falò delle cose che ci abbiano dei contenuti che ci stanno più simpatici, o che siano accessibili in modo diverso, o che si riconnettano direttamente a fatti che riguardano anche come è cambiato il territorio in cui viviamo e le leggi che ci permettono di fare quello che facciamo o di non farlo e ci danno, ci tolgono la libertà. Insomma, i canti anticlericali molto spesso sono canti antimonarchici perché si scagliano contro una monarchia in particolare, sono anche canti di eserciti, Molti sono canti garibaldini, sono anche canti del 1800 e non necessariamente utilizzano lo stesso linguaggio e hanno gli stessi contenuti che noi adesso approveremmo. Temi specisti, sessisti sono presentissimi in molti di questi e devo ammettere che la vostra Carlessa che vi parla qui adesso a Folk Oddio è stata un po' indecisa se presentarvi alcune cose. Come per esempio la prossima, e senza indugio passiamo a un altro canto della fine degli anni 60 del 1800, che è un canto garibaldino, canto garibaldino che tra l'altro è passato poi alla Resistenza, era popolare tra le brigate garibaldi del nord-ovest d'Italia, era un canto spesso cantato quando si festeggiava il 20 settembre la Breccia di Porta Pia. La Breccia di Porta Pia abbiamo smesso di festeggiarla con i patti lateranensi del 1930 e anche qua torniamo ai legami tra Chiesa e Stato e come queste cose informino anche proprio il nostro calendario civile di celebrazioni all'interno di questo paese. E quindi adesso passiamo a E a Roma, a Roma, se la volete seguire per lo più libera, però diciamo che è in fa maggiore e nella parte più ritmata del ritornello siamo decisamente su una cosa stornellata, fa maggiore, do settima. Questa è una raccolta di stornelli, qui cambiano testo delle strofe e anche melodia alla fine dove si passa invece in re maggiore, la. Comunque è tutto su due accordi. E a Roma, a Roma. E a Roma, Roma, ci sta un papa che di soprannome si chiama Pio IX, lo butteremo giù dal trono. Dei papa in Roma non ne vogliamo più, lo butteremo giù dal trono. Dei papa in Roma non ne vogliamo più. Prima in San Pietro e poi in San Paolo, e le loro teste vogliamo far saltare in piazza d'armi la ghigliottina. E le loro teste vogliamo far saltare in piazza d'armi la ghigliottina. E le loro teste vogliamo far saltare. E a Roma, Roma, suonavan le campane, piangevan le puttane, che morta al puttane lo butteremo in una pignatta. O brutta vacca, buon brodo ci darà, lo butteremo in una pignatta. O brutta vacca, buon brodo ci darà. Chi siete voi? Noi siamo piemontesi. Voi siete vili, barbari assassini. Sì, no, siamo valorosi garibaldini, che anche Roma vogliamo liberar. Siamo valorosi garibaldini, che anche Roma vogliamo liberar. E sulle mura di quei conventi piazzeremo i nostri cannoni e ai preti, ai frati, quei birbantoni, il buongiorno lor lo daremo noi. E ai preti, ai frati, quei birbantoni, il buongiorno lor lo daremo noi. Questo canto garibaldino che abbiamo appena ascoltato, raccolto e cantato da Cesare Bermani, che è stata una figura fondamentale nel revival del folk italiano negli anni 60, ha collaborato con Dario Fo, ha fatto i vari Ci ragiono e canto e via dicendo. E si chiama appunto E a Roma a Roma, è raccolta in un disco che si chiama Camicia Rossa e raccoglie canti garibaldini, è sempre uno dei tanti dischi del Sole. E come avete sentito, ci pone di fronte ad alcune difficoltà per quello che riguarda la scelta del testo, il modo in cui si parla di vacche e di puttane decisamente non è quello che adotteremmo adesso. ma appunto ha tutte le caratteristiche di un canto militare, un canto di guerra, un canto di assalto al papato che sul finire degli anni 60 del 1800 era l'ultimo ostacolo all'unità d'Italia. E con questo non vogliamo neanche prendere una posizione riguardo a chi, come e perché controlla il paese, sotto quali forme di unità e di governo. Però da un punto di vista, ecco così, di storia del canto anticlericale, possiamo senz'altro notare che quest'odio per la Chiesa permea una certa parte del repertorio e passiamo infatti subito a degli stornelli di carattere più popolare, permeati anche loro da odio anticlericale, li passiamo senz'altro dire adesso, sono in Do maggiore, cominciando però dal Sol. Li potete seguire tranquillamente. Qui abbiamo sempre il gruppo Z che abbiamo passato nella seconda puntata, mi sembra. E quando muoio io. Ah, attenzione che ci squilla un telefono a un certo punto, non è il vostro, brutta registrazione, basta. Vaticano andesse in fiamme e Papa ne bruciasse e le melemme e Papa ne bruciasse e le melemme bruciasse preti in corpo alle sumame. E quando muoio io non voglio preti, preti e frati né pater nostri, non voglio preti e frati né pater nostri, la voglio la bandiera dei socialisti. Preti e frati, né pater nostri, non voglio preti e frati, né pater nostri, voglio la società dei socialisti. E la rigilla, la rigira la sempre arditi, e viva i socialisti, abbasso i gesuiti, e la rigilla. Hanno arrestato tutti i socialisti, l'arresto fu ordinato o dai ministri, l'arresto fu ordinato o dai ministri, e questi sono i veri, i camorristi. E la rigira, e mai la sbaglia, evviva i socialisti! Abbasso la spirraglia e la rigira, e mai la sbaglia, e viva i socialisti, abbasso la spirraglia. La Francia ha già scacciato i preti e i frati, le monache e i conventi ed i prelati, le monache e i conventi ed i prelati, perché erano tutte spie e in ciò pagati. E la rigira, la rigira e la ferindora, abbasso tutti i preti e chi ci crede ancora. E la rigilla, rigilla, rigira, la rigira e la sperindola, abbasso tutti i preti e chi ci crede ancora. Ma se Giordano Bruno fosse campato, ne esisterebbe più neanche il papato, ne esisterebbe più neanche il papato, e il socialismo avrebbe già trionfato. E la rigilla, rigilla, rigira, la rigira e la fa 31, evviva i socialisti, evviva Giordano Bruno. E la rigilla, rigilla, rigira, la rigira e la fa 31, evviva i socialisti, evviva Giordano Bruno. E quando muoio io non voglio preti, non voglio preti e frati, né pater nostri, ma quattro bimbe belle alla mia barella, ci voglio il socialista e la sua bella. E la rigilla, rigilla, rigira, la rota e la rotella, evviva Giordano Bruno, Garibaldi e Campanella. E la rigilla, rigilla, rigira, la rota e la rotella, evviva Giordano Bruno, Garibaldi e Campanella. E la rigilla, rigilla, rigira, la rota e la rotella, evviva Giordano Bruno, Garibaldi e Campanella. Abbiamo sentito il gruppo Z che esegue due serie di stornelli su melodie intercambiabili, in realtà, che si eseguono tranquillamente in Sol e Do, quindi, anzi Do. Vorrei che il Vaticano andesse in fiamme, quindi è Sol. Do do do do do so so so so so do do. Eppure la seconda serie, la Francia ha già scacciato i preti e i frati, le monache e i conventi ed i prelati, le monache e i conventi ed i prelati, perché erano tutte spie, spie e ci ho pagati. E la rigilla, rigilla, gilla, rigilla, scusatemi, dottoro, tanto gilla, rigilla, rigira, la rigira, la ferindora, abbraccio tutti i preti e chi ci crede ancora. E piccola nota su questa Francia che caccia i preti, quindi abbiamo detto tutto questo in Sol e Do, facilissimo. E la Francia caccia i preti subito prima del 1901, nel momento in cui sottopone tutte le congregazioni religiose a controlli più forti da parte dello Stato, era lo stesso governo che riconobbe i sindacati dei lavoratori, per intenderci, e tutte queste congregazioni che in particolare si occupavano dell'educazione dei minori, e su questo non apro neanche la parentesi, scappò in Italia tra le braccia della Chiesa che accolse queste masse di corvi neri. C'è un canto di cui si è trasmesso solo il testo, oddio non mi ricordo come si chiama, di cui si è trasmesso soltanto il testo, ma non la musica. Bel paese l'Italia, ecco qua, meno male che abbiamo l'internet acceso in questo momento. E quindi niente, abbasso i gesuiti, abbasso tutti i preti e chi ci crede ancora. Gesuita è anche il monarca che siede adesso sul trono papale, Francesco I, le cui connivenze con la dittatura argentina di Videla non mi pare che siano ancora del tutto chiarite. Insomma, la Chiesa, sì, ci sono anche i preti e le monache che fanno le cose buone, per carità, ma appunto aver fatto anche cose buone non so se basta a lavare le mani dal sangue delle donne che hanno abortito per conto proprio, oppure della popolazione falciata dall'HIV quando non si distribuivano i preservativi, o di tutta la gente mandata a morire in guerra. O delle torture che Campanella ha subito per 40 ore, per esempio. Ci sono degli eroi popolari in qualche modo in molti di questi stornelli: Garibaldi, Campanella, Giordano Bruno, Quando Pio IX rientra a Roma dopo la caduta della Repubblica, una delle cose che fece fu proprio, oltre a istituire di nuovo la pena di morte, per esempio, fu proprio abbattere la statua di Giordano Bruno che nel frattempo era stata eretta, e questo ci porta a uno stornello romano. Che comincia con proprio uno evviva Giordano Bruno e che sentiremo ancora una volta fatto dal canzoniere del Lazio. Questo si fa in re e la, sempre più o meno due accordi, anche se soltanto poi sentirete nel ritornello qua c'entra anche un sol, questa cosa qua. E niente, adesso poi ne parliamo. Adesso evviva Giordano, uno evviva Giordano Bruno, canzoniere del Lazio, sempre il primo disco del 1973, quando nascesti tu. Uno e viva Giordano Bruno che diceva la verità, trionfa socialismo, socialismo trionferà. Due le mie braccia gole, due tutte so per lavorare, trionfa socialismo, socialismo trionferà. Tre so formato come te, più nessuno devo già, trionfa socialismo, socialismo trionferà. Uno nullo possa aver nessuno, manca Andreotti corcurato, possa aver becchiato votato e semmai si pentirà. Mira la rondonella, mira la rondonella. E mira la rondonella, mira la rondonella. 4 chi lavora è un gran matto, si se lascerà sfruttare, trionfa socialismo, socialismo trionferà. 5 traditore è chiunque, se il cumiro lo farà, trionfa socialismo, socialismo trionferà. 6 i tuoi figli come i miei, tutti devono studiare, trionfa socialismo, socialismo trionferà. Due so governo cialla due dei Liviani, dei Marcialle e dei Fanfani, quello è pure c'è sta. Mira la rondonella, mira la rondonella. E mira la rondonella, mira la rondonella. 7 chi in ciacore in ce se mette, quando il botto se farà, trionfa socialismo, socialismo trionferà. 8 il plumiro far fagotto perché posto non c'è sta, trionfa socialismo, socialismo trionferà. 9 incominciamo a fare le prove per campare in libertà, trionfa socialismo, socialismo trionferà. 3 noi volessimo sapere se Andreotti si è deciso, da mannaccia in paradiso, che all'inferno ci stiamo già. Mira la rondonella, mira la rondonella. E mira la rondonella, mira la rondonella. 10 tutti quanti siamo amici, chi è che vola libertà? Trionfa socialismo, socialismo trionferà. 11 non volemo più i giudici, giusto il popolo sarà. Trionfa socialismo, socialismo trionferà. 12 chi sta in camera e chi in cucina, chi sta a letto a riposa. Trionfa socialismo, socialismo trionferà. 3 noi volessimo i sapessi, Andreotti si è deciso, da mannaccia in paradiso, che all'inferno ci stavo già. Mira la rondonella, mira la rondonella. Mira la rondonella, mira la rondonella. Mira la rondonella, mira la rondonella. Care amiche e cari amichesse, bentornate a Folk Oddio. Vi ricordo che la nostra mail è folk.oddio@canaglie.org. Quella che abbiamo appena ascoltato era Uno evviva Giordano Bruno, mescolanza di due serie di stornelli anticlericali la prima con i numeri fino a 12 e anticlericali e antidemocristiani i secondi con la numerazione fino a 3. L'abbiamo sentiti fatti dal canzoniere del Lazio. E bello ricordarci che appunto clero e governo tramite la Democrazia Cristiana sono stati intimamente connessi. E passiamo ad altri governi, stavolta celebriamo un anniversario, l'avremmo dovuto celebrare forse la settimana scorsa, perché tra il 6 e il 9 maggio del 1898 a Milano si spara sulla folla, il generale Bava Beccaris spara sulla folla per i moti di Milano appunto di quell'anno con il plauso della monarchia Umberto I, e Umberto I anche per questo motivo sarà ucciso poi da Gaetano Bresci nel 1900, il 29 luglio, alla stazione di Monza, che è il prossimo pezzo che andiamo ad ascoltare, eseguito da Gio Fallisi, ex anarchico tenore, adesso pare convertitosi a posizione di stampo neonazista. Vabbè, abbiamo ascoltato Ferretti, ascolteremo anche Fallisi. E E poi, senza soluzione di continuità, Montelupo, progetto che ha pubblicato un canzoniere anarchico ammodernato nel 2014, Bruceremo le chiese. I pezzi sono la messa in musica di quasi delle stesse strofe, si fanno entrambi in sol maggiore, Bruceremo le chiese, ve lo spiego dopo. Alla stazione di Monza invece in sol maggiore e re settima con un do maggiore che capirete se seguite da sole quando è che c'è. Buon ascolto alla stazione di Monza e poi bruceremo le chiese. Alla stazione di Monza arriva un tren che ronza, hanno ammazzato il re, colpito con palle tre. Bruceremo le chiese e gli altari, bruceremo i palazzi e le regge, con le budella dell'ultimo prete, impiccheremo il Papa e il re. Rivoluzione sia, guerra alla società, rivoluzione sia, guerra alla società, piuttosto che vivere così, meglio morire per la libertà, meglio morire per la libertà. E il Vaticano brucerà, e il Vaticano brucerà, e il Vaticano brucerà con dentro il Papa. E se il governo si opporrà, e se il governo si opporrà, e se il governo si opporrà, rivoluzione, rivoluzione sia, guerra alla società, rivoluzione sia, guerra alla società, piuttosto che vivere così, meglio morire per la libertà, meglio morire per la libertà. Dying is so fair. Bruceremo i palazzi e le regge, bruceremo le chiese e gli altari, con le budella dell'ultimo prete, impiccheremo il Papa e il Re. Rivoluzione sia, guerra alla società, piuttosto che vivere così, meglio morire per la libertà. Il Vaticano brucerà, il Vaticano brucerà, il Vaticano brucerà con dentro il Papa. E se il governo si opporrà, se il governo si opporrà, e se il governo si opporrà, rivoluzione, rivoluzione sia, guerra alla società, piuttosto che vivere così. Stato sul monte Amiata, dove è morto Gesù Cristo, anche lui era socialista e morì per la libertà. Prete, prete, tu mi farai morire. Prete, prete, tu mi farai morire. Abbiamo sentito Bruceremo le chiese, eseguita dai Montelupo in un disco del 2014 che si chiama Il canzoniere anarchico, che raccoglie una serie di canti piuttosto noti, tutti molto interessanti, andatevelo ad ascoltare. E niente, questa canzone, questo canto si fa su un po' di accordi perché tende a cambiare strofa per strofa, però prevalentemente abbiamo Sol, Re settima nella prima, bruceremo le chiese, gli mondo, impiccheremo re settima, il papa la settima e il re, o il papa re, il papa e il re sono la stessa cosa in molti contesti, tra cui lo Stato Vaticano. Rivoluzione, tutto sol, rivoluzione sia guerra alla società, piuttosto che vivere così, meglio morire per la libertà. Il cantante di Montelupo ha questa bella voce maschia da basso, io devo cantare un'ottava sopra, sembro un tacchino sotto un tir. E il Vaticano brucerà, qui siamo in do maggiore, e il Vaticano brucerà in sol maggiore, e sulla quinta della minore, sul secondo grado, insomma mi maggiore settima, il Vaticano brucerà finalmente la minore, che sarebbe appunto sul secondo grado minore, con dentro il Papa, con dentro re settima il Papa. E si ripete tutto uguale. Spero che i concetti e gli accordi siano entrati bene in testa. Noi il Vaticano non lo vogliamo abusare, chiaramente, minimo per il patrimonio artistico che esiste solo grazie ai lauti finanziamenti della Chiesa, con soldi che arrivano da chissà dove, gestiti chissà come, però vabbè. Sono stato sul Monte Amiata e sol e re, cambia tempo, siamo in tre, però sono stato sul Monte, in sei forse, sono stato sul Monte Amiata, è morto Gesù Cristo, anche lui era un socialista e morì per la libertà. Sul socialismo cristiano e il ruolo della Chiesa, che per salvare il suo Dio deve scomparire, come dice Giovanna Marini, appunto vi consiglierei una bella ballata di Giovanna Marini, 14 minuti di Chiesa Chiesa, su un disco che si chiama proprio così, Chiesa Chiesa. Credo del 1965, sempre un disco del Sole, carina Chiesa Chiesa. E l'ultima strofa, simile a Il Vaticano brucerà senza il Mi settima, quindi è... no, scusate. Prete, prete, tu mi farai morire. Prete, prete, tu mi farai morire. Mi farai morire. Quindi è sol, sol, sol, sol, e poi la minore, re settima, mi farai morire, sol. E questa era Bruceremo le chiese, che vi abbiamo spiegato forse fin troppo in dettaglio. E la cosa bella del progetto Montelupo è che più che moderna ripresenta questi canti anarchici con una strumentazione senz'altro non filologica, non d'inizio 800. Questo è un grande dibattito in tutta la scena della musica folk, cioè se vada eseguita in maniera filologica con i mandolini tradizionali col pancione, le varie chitarre, le chitarre battenti, quello che si usava all'epoca di prima circolazione, massima circolazione, non si può forse dire prima scrittura di questi canti, oppure se invece suonarli in maniera popolare, cioè con gli strumenti che si sanno suonare di volta in volta. E Montelupo, diciamo, va un po' in questa direzione, perché utilizza gli strumenti che persone che abbiano un po' di confidenza con tutta la musica, diciamo, pop, oltre che popolare, di adesso potrebbero suonare: batterie, chitarre, chitarre elettriche e compagnia bella, anche se poi mantengono tutto sommato degli arrangiamenti abbastanza tradizionali per certi versi. Questo comunque ci porta al nostro esperimento, perché reseci conto che purtroppo qua di strumenti ne sappiamo sempre meno, anche questo è un bel problema, musica ne compriamo tantissima, in streaming, in CD, supporti vari, vinili, quello che sia, ma la sappiamo suonare sempre meno, anche i quattro accordi in croce che faccio io sulla chitarra non li sappiamo tanto suonare, cioè sono poche le persone che lo possono fare, ed è un peccato, perché abbiamo venduto il nostro intrattenimento, abbiamo dato via il nostro intrattenimento, che adesso dobbiamo ricomprarci, per avere musica dobbiamo comprare musica più che eseguire musica. Vabbè, comunque in questo caso, e anche perché Siamo tutti a distanza, questo clima di quarantena che anche radiovirus in un certo senso contribuisce un po' a spezzare tutte queste cose che vediamo in giro, cantiamo il coro a distanza, eccetera, eccetera. Abbiamo pensato di mettere insieme finalmente le voci delle canzoniere, tutte le amiche e le amichesse delle canzoniere che ci cantano una canzone che, nonostante ci abbia sempre il solito linguaggio un po' specista, e via dicendo, noi ci portiamo dal cuore un po' per tradizione, perché è della zona romana, e via dicendo, che è Bevi Compagno, e adesso ve la facciamo sentire fatta proprio da noi. Bevi, bevi compagno, signora Massero, m'ammazza compagno, esecuzione capitale di Bevi Compagno, le canzoniere con le amiche e le amichesse. Grazie a tutte per aver collaborato, a me veramente mi si stringe il cuore. E se la volete fare a casa vostra, Mi maggiore e Si maggiore per tutta la strofa, e invece ritornelletto la la la mi mi mi si si si si si si mi mi mi mi la la la e via dicendo, sì sì sì sì sì sì sì sì, mi mazza monache preti e fra frittate di monache, viene proprio dal testo di questa canzone, che ci pone ad alcune difficoltà, forse di ordine specista, ci fa riflettere sul fatto che i testi forse possono, devono essere aggiornati, e di questa cosa parlavamo proprio con la nostra amica che ci ha segnalato per Sorelle Partigiane, il nostro concorso sui canti della resistenza al femminile, un canto che non è di resistenza ma che parla di Dio, e quindi ci teniamo a proporvelo proprio in questa puntata, ed è il contrasto tra l'aristocratica e la plebea in occasione della impresa di Tripoli, canto raccolto da Caterina Bueno, inciso penso anche da lei su Erano tre falciatori. Si sente anche un frammento sempre cantato da Caterina Bueno in Un ci ragiona e canto, andatevelo a sentire perché lo spettacolo lo abbina ad altri canti di lutto per la morte di figli, e insomma ci ricorda molto bene qual è il senso della guerra e di certo patriottismo religioso, forse di tutto. Ma adesso noi lo sentiremo invece eseguito da Francesca Breschi, un disco del 2012 che si chiama Il canto segreto degli alberi. Francesca Breschi ha collaborato, collabora con Giovanna Marini e lo esegue qua a voce sola e armonio mendiano, direi, credo, e lo fa in fa diesis minore per le parti della plebea e in sol minore per le parti dell'aristocratica. La stessa cosa, un semitono sotto e un semitono sopra. In fa diesis minore gli accordi sono fa diesis minore, si minore, fa diesis minore, la maggiore, fa diesis minore, do diesis settima maggiore. Ed ascoltiamolo subito, il contrasto tra l'aristocratica e la plebea in occasione della impresa di Tripoli. Da piccola bambina io avevo imparato che c'era un solo Dio che ci comanda. Ora si vede che il mondo si è cambiato, perché si trova un Dio per ogni landa. Così rimane il popolo ingannato dalla vostra fallace e propaganda, mentre Dio ci descriveva non ammazzare. Oggi vediamo la gente macellare. È sempre costumato guerreggiare, e oggi ce lo impone e più che mai. Chi per voler le terre conquistare e chi per dar lavoro agli operai. Intanto quei malvagi piano piano un po' di educazione la impareranno, tralasceranno i rei costumi suoi, diverranno educati come noi. Dici che civilizzare tu li vuoi, pagherei a sapere come farai. Fammi piacere e dimmi come puoi agli altri regalare ciò che non hai. Prima di tutto civilizza i tuoi, perché sei una statistica tu fai. Troverai tra gli italici abitanti il 70% di ignoranti. Questo tu l'avrà letto sull'Avanti, giornale socialista e temerario. Esser non ci vuol che noi frattanti all'impresa di Tripoli contrario, mentre gli altri rammentano d'un caso straordinario. Giornali fatti da nazionalisti e l'Avanti lo fanno i socialisti. Chi ha di cuore cattivo, fossero stati invece socialisti e il mio figlio sarebbe ancora vivo. La guerra è bella per capitalisti, perché ritrovano sempre il loro attivo. Dalle imposte che tengano impiegate dicono sempre armiamoci ed andate. Questa era Francesca Breschi che canta il contrasto tra l'aristocratica e la plebea in occasione dell'impresa di Tripoli. Ricordiamo Impresa di Tripoli 1911, ci andiamo a prendere con scuse di cristianesimo la Cirenaica dagli ottomani, in parte anche per dare terra agli italiani, che era un motivo per cui la sinistra non si oppose completamente a questa impresa. E su temi di terra e immigrazione, cos'è patria, credo che torneremo nella prossima e ultima puntata di Folk Oddio, e partono cantando. E prima di procedere a chiudere questa puntata qua, in realtà vi mandiamo quello che sarebbe l'ultimo pezzo, c'è cioè un extra alla fine, ma l'ultimo pezzo a tema veramente religioso è il canto dei Sanfedisti, di segno politico completamente opposto a tutto quello che abbiamo ascoltato fino adesso. Qui abbiamo un canto sì popolare, sì cantato da masse diseredate che sostengono la Chiesa e la monarchia nel rovesciare il tentativo di Repubblica Napoletana del 1799. Le vicende di questa cosa sono descritte in un bel romanzo di Enzo Striano che si chiama Il resto di niente, e in parte appunto anche proprio in queste strofe che sono state messe in musica, credo che le musiche siano originali di Roberto De Simone, per la nuova compagnia di canto popolare, che appunto lo mise in musica nel 1972 nel suo secondo disco, un disco doppio che tra l'altro contiene la sigla di apertura e di chiusura di Folk Oddio e La serpe a Carolina, che invece era un canto, un'aria d'opera che l'aristocrazia rivolse contro la monarca appunto di quegli anni a Napoli. Passiamo subito all'ascolto. Canto dei Sanfedisti su tre accordi: Si minore, Re maggiore, Fa settima, Fa diesis maggiore, scusate, settima se volete, Si minore. Nuova compagnia di canto popolare, Canto dei Sanfedisti. Farai dei giacobini e poi c'entra la bambina. è fernuta l'eguaglianza, è fernuta la libertà, ma qui sotto non ho fatto signoria. Questo era il canto dei Sanfedisti, immaginaria colonna sonora di eccidi e distruzioni nelle città, per esempio, di Crotone e di Paola nel 1799, rovesciamento della Repubblica Napoletana, ed è anche un po' il pezzo con cui si chiude il nostro ciclo, diciamo così, spirituale per questa puntata frittata di monache. L'abbiamo sentito eseguito dalla Nuova Compagnia di Canto Popolare nell'esecuzione che l'ha reso poi celebre in tutti i decenni a seguire fino ai giorni nostri. Si sente ancora tantissimo il canto dei Sanfedisti. E invece chiudiamo, come abbiamo aperto questa puntata, con colonne sonore. Abbiamo cominciato con Nicola Piovani, la colonna sonora di Nel nome del popolo sovrano, e chiudiamo con una richiesta che ci è arrivata, noi la passiamo molto volentieri, che è a sua volta una colonna sonora, stavolta di Nino Rota, che usò questa musica già precedentemente in un film che si chiama Fantasmi a Roma, una commedia, ma che poi la rimaneggiò per il film che l'ha resa celebre in tutti gli ambienti del canto di protesta, che è Film d'amore e d'anarchia, che tra l'altro contiene di per sé una bellissima antologia del canto popolare, quindi è un film anche da sentire oltre che da vedere se non lo conoscete. E, canzone arrabbiata, e gli accordi ve li diciamo dopo, la facciamo precedere però da il nostro più amato personaggio proprio di Fantasmi a Roma, che è Regina, la quale appare nel film con un interessantissimo programma politico, e quindi diamo la parola a Regina per introdurci poi Canzone arrabbiata, cantata da Anna Melato, la sorella di Mariangela Melato, che dopodomani tra l'altro compie gli anni. L'ora è arrivata! Io sono Regina, santa e papessa, il trono è mio, mo dove te tasso e no ve mando tutti nelle caverne, tutti, vo dice la vostra regina. Tieni. Italiani, ladri, zozzoni, tutti con la rugna. Sfaticati, schifosi, grazie, e morti regina. De sonno, le faccio sotterrare tutti nelle fogne. Oh, c'è pure sua maestà, c'è. Regina, oggi non è scritta in America? La regina ha scritto, hanno risposto per telegramma diretto, sabato arrivano e mi rimettono sul trono, e per primo do fuoco al Campidoglio, chiudo i ministeri e riapro i casotti. State attenti. Canto per chi non ha fortuna, canto per me, canto per rabbia questa luna. A tanta gente nell'oscurità, alla solitudine nella città, alle illusioni dell'umanità, tutte le parole che ripeterà. E canto per chi non ha fortuna, canto per me. penso a tanta gente nell'oscurità, alla solitudine nella città, penso alle illusioni dell'umanità, tutte le parole che ripeterà, e canto per chi non ha fortuna, canto per me, canto per rabbia questa luna contro di te, canto a quel sole che verrà, tramonterà, rinascerà, alle illusioni, alla rabbia che mi va. Abbiamo appena sentito Canzone arrabbiata, cantata da Anna Melato. Ho dimenticato di dire prima che la musica è di Nino Rota. E... E questo si bemolle in realtà siamo su un accordo, le altre erano tutte cromatismi, ma qua invece abbiamo cambiato accordo, siamo passati da mi minore a do diesis settima, per scendere di un semitono a ta da da da re si settima re. Scusate, re do si la sol, e questo sol è di un mi minore. E niente, scusate, forse spiegazione un po' frettolosa di Canzone arrabbiata, però abbiamo fretta di chiudere perché mi sa che ho parlato tantissimo questa volta. Questa era La Carlessa di Tavolo Queer Macao, che per le canzoniere presenta Folk Oddio. Chiudiamo la puntata numero 5, Azzurra come il cielo, frittate di monache. Vi ricordiamo che potete scriverci a folk.oddio@canaglie.org e vi aspettiamo per la prossima, sesta e ultima puntata. E partono cantando, e adesso Tarantella del 600, nuova compagnia di canto popolare, che è la nostra sigla.